Diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del ristorante convento. Buon ascolto. La diretta continua quando sono le 2 del mattino, le 2:09 se vogliamo essere precisi, come è giusto ricordare che è sabato 1 settembre del 2018, questo è il convento di Lonato e la web radio dello stesso locale che si chiama Ristoradio Convento. Diamo ancora un po' di spazio alle nostre spose, ai nostri festeggiati, in questo caso una sposa a cui però non hanno detto evidentemente che andava ad una festa in un locale anche piuttosto di tendenza, piuttosto in, perché si è presentata fondamentalmente in pigiama. E quindi insomma c'è qualcosa che dobbiamo capire meglio, ma lo chiederemo direttamente a lei. Buonasera intanto. Buonasera, no, la specifica è che mi hanno vestito così, cioè in vero vestita bene. Di tutto punto. Allora, per intanto dici come ti chiami così. Claudia. Oh, benvenuta Claudia. E allora, per vendicarti, tra virgolette, raccontaci quanto eri gnocca. Di come eri vestita, per favore. Cioè, riprenditi il possesso della tua femminilità. Ero vestita con un vestito nero attillato e praticamente le mie amiche. Ma se me ti invidiavano perché sono tu. Esatto. No. Tra virgolette, testimoni mi hanno praticamente cambiato, mi hanno messo un bel pigiama. Con belle ciabatte rosa. Proprio, ecco, dovete capire. Intanto secondo me erano invidiose perché loro sono vestite di nero e quindi avrebbero sfigurato di fronte al tuo vestito attillato. E seconda cosa, per riassumere il vestito di Claudia, insomma, come vestite in questo momento. Uomini all'ascolto, immaginate tutto ciò che in una donna può non essere sexy. È esattamente quello che Claudia ha indosso adesso, perché ha delle Crocs e un pigiama di quelli imbarazzanti, quelli con le orme dei cagnolini lì, no? Quelli. Si dice che conta la bellezza interiore. Certo, ma è anche quello forse il motivo. Cioè, hanno fatto in modo di renderti, come dire, così poco attraente fuori per far risaltare il lato migliore di te, che è il lato interiore. Cioè, per far capire che non è l'abito, non è il vestito che fa il monaco, in questo caso che fa la Claudia. No, no, assolutamente sì, ecco. Potevi ancora andare più in basso avendo un pigiama, quello con i gattini tutti pelusciosi e toccacciosi, ma so che esatto, che ci avevano pensato. E raccontaci intanto da dove vieni? Che non, da Ghedi. Da Ghedi, provincia di Brescia. Sì. Raccontaci anche un po' perché stai conciata così, cioè specificando che non esci così tutte le sere. E no. C'è un motivo, dicelo tu. Perché mi ha denubilato il corso 29 settembre e i miei testimoni mi ha fatto questa, tra virgolette, bella sorpresa. Beh, io metterei le virgolette anche a testimoni, cioè le anticiperei. Non anche. Pensare. Esatto, le anticiperei e diciamo anche che sono ancora, cioè si sono riaperte le candidature per le testimoni a questo punto. Cioè nel senso, certo, c'erano i ruoli definiti. Ancora adesso. Ancora per 3 settimane che vuole, esatto, candidarsi, può votare per suo piedi. Ah, addirittura c'è un'urna in cui candidarsi. E allora dici, facciamo così, che matite non cancellabili. Ah, ok, giusto, come una vera votazione. Allora facciamo così, tornando a una specie di chi vuole essere testimone, riprendendo il gioco, il vecchio gioco di Gerry Scotti, che caratteristiche deve avere la tua testimone ideale o il tuo testimone ideale, perché apriamo anche i maschi a questo punto. I testimoni sono come belle ragazze, quindi. Ok, io sono già tagliato, cioè già la prima sono già tagliato fuori, volevo candidarmi, niente. Beh. Perché mi manca un matrimonio, capito? Cioè vorrei vivermi un matrimonio al protagonista. Ah, vieni tu a posto di e loro. Quindi, ma già sulle belle ragazze mi sono tagliato fuori. Ah, vabbè, insomma, ok. Beh, però c'è il senso, c'è una giuria che vota la bellezza, è una cosa che uno no, si sente dentro. Io. Ah, decidi tu. Pensavo che se uno se la sente dentro poteva partecipare. Faccio tutto io. Ah, ok, diciamo che fondamentalmente sembra un matrimonio ma è una dittatura. Esatto. Ok. Come il matrimonio. Non dirmi che anche matrimonio è tra virgolette, perché sennò. No, per molti mi dico. Ah, ok, ho capito. Quindi tornando a noi, belle ragazze. Sincera, simpatica come sono loro. Sincera e simpatica, insomma, non è così, non è impossibile, dai. Si può fare. È anche raro trovarle giorno d'oggi, le ho scelte bene. Le sincere o le simpatiche? Ah, tutte e due, sarei sincera e simpatica. Perché anche bella. Ah, giusto, giusto, anche bella, bella, sincera e simpatica. No, non siamo noi, tra l'altro. Non lo so, bisogna capire se sono le caratteristiche che cerca nelle nuove testimoni. Erano, quelle... erano le mie testimoni. Ah, okay. Ah, erano le tue testimoni una volta. E tra l'altro la cosa penso più importante di questi minuti che passiamo insieme è ricordare chi è il tuo sposo, perché è una persona fantastica, partendo dal nome che è uno dei più belli, Nicola, che abbia mai sentito nell'universo probabilmente. E dici un po'? Nicola, ok, lui di dov'è? Ghedi anche lui. E vi siete, come vi siete, cioè si è candidato per essere testimone e poi è passato di grado? No, l'ho conosciuto tramite appunto una delle mie testimoni. Ex, ah ok. Ancora, vedi, ancora vi ha chiamate testimoni, quindi nel suo cuore non vi ha ancora sostituite. Ok, quindi tramite, vabbè, interposta persona. E state insieme da tanto? 3 anni e mezzo, che è quel ibrido tra il tanto e il poco, l'abbastanza. Tra l'altro c'è un bimbo. Ah sì? Avete cambiato gli addendi, diciamo così, perché di solito la, come dire, gli step sono diversi, invece voi avete un attimo rivoluzionato le... Va benissimo così. No, beh, insomma, quello, se siete contenti voi. Come si chiama il bimbo? Alessandro. Quanti anni ha? Ah bene, perfetto, beh però può già partecipare, come dire, attivamente al matrimonio, petali, fedi, quelle cose lì. Quello che riuscirà a fare, beh, a scappare. Quelle cose importanti, beh però se gli dai un compito secondo me sarà ben contento. Sì, dovrà di... portare il pegno in teoria. Vedi, a meno che ce l'è, a meno che è già un ricettatore fatto e finito, se le scippa le vende fuori dalla chiesa e cerca di guadagnarsi per i plasmon. Per, cioè, vendo per la un plasmon. Ah, è sulle gocciole va? Ma le gocciole vanno forte sui bambini. Sì, sì, sì, sì. Poi tutte queste dita belle unte, belle tutte briciolose. No. Allora direi anche di fare un saluto anche alle testimoni a questo punto. Vai ragazze. Ciao, sono Loretta. Loretta, ok. Ciao, sono Valeria. Loretta e Valeria, benvenute. Volete dire qualcosa per vendicarvi delle belle parole che Claudia ha usato per voi? Potete offendere lei, criticare lei, dire un suo più grande difetto, dire che è bellissima vestita così, dovrebbe uscire la così. La nostra ex amica. Beh, sono andate giù pesanti, però, eh. Sono andate giù. Sono andate giù pesanti. La Loretta un po' meno. Diciamo un po'. Lei è di brutto. È timida. L'abbiamo messa così perché gli piace stare in pigiama, allora abbiamo deciso di sentire a suo agio. Sei una pantofolaia. Sì, inverno soprattutto. Sì. D'inverno non ti piace uscire molto? Ah sì? Beh però, insomma, è come si dice, se uno è tra virgolette a posto con se stesso, cioè se uno sta bene nell'ambiente in cui è, non c'è bisogno di cercare altro. Che per lei è cominciato da ieri l'inverno, perché tra l'altro. Ah, c'è scavallato agosto per te, è già Camino Castagne e Vimbrolè, no? Vedi, nel momento in cui proprio scavalli agosto è già Natale fondamentalmente. Sta cercando i pandori la Claudia. E, beh, quindi cos'è? Vi sposate il 29, mi dicevi? Cosa vai in col pellicciotto? Col piumino d'oca. Rosso. No. Ah, non lo so. Sentivo. Col piumino, gli stivali, poi ero in dubbio se era pelliccia. Sciarpa. Insomma, bisogna comunque stare attenti al rigido inverno della provincia di Brescia che insomma colpisce tante persone. Fa freddo, è giusto così. Non siete sole perché ci sono anche altre ragazze. Salutiamo anche loro per giustizia. No, niente, salutiamo e basta. Non ce l'hai presente, neanche i nomi vuole dirci, proprio il massimo della... Domenica, Tatiana e Alice. Ok, quindi salutiamo anche loro. Oltre alla mia ex amica Loretta e Valeria. Che e si sono pizza? Già presentate, probabilmente tu non c'eri, eri da un'altra parte. E la pizza? Ah, la piccola Maya. Di chi? Sì, è quella che aveva fatto indigestione. È la classica battuta che tutti l'hanno fatta per tutto il giorno. E ok, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa in chiusura? In aggiunta a quello che già avete detto? Saluto Nicola e Alessandro. Grazie, ti saluto anch'io. Ah no, scusa, ho avuto un attimo di refuso. Il mio secondo grande amore Alessandro. Vabbè, com'è giusto per... Ah, secondo grande amore, addirittura lei. Di solito c'è una lotta in famiglia, diciamo così, però di solito vince il figlio, no? Invece in questo caso... I figli sono solo in prestito, purtroppo è vero. Sì, vabbè, non mi piace chiudere con questo velo di malinconia, però dal punto di vista logico, pensandoci, sì, è vero. Però, vabbè, non è un bruttissimo modo di vederla, vediamola in un altro modo. Però, come definizione, non è così falsa. È vero. Però penso che ci sia molto altro in mezzo a tutto questo. Va bene, allora, buona festa, perché ancora c'è un po' da festeggiare. E in bocca al lupo per tutto. E buon matrimonio alla nostra Claudia. E grazie anche alle sue testimoni che sono state qui con noi. Ciao, ragazze! Ciao! State ascoltando Ristoradio Convento.